Sono stato espulso giustamente perché ho mandato arbitro a quel paese, perché mi sono rotto le palle che siamo squadra più ammonita al mondo. No, sembra che ci sono 11 killer in campo, invece sono tutti ragazzini, evidentemente è più facile ammonire un ragazzino che un giocatore affermato. Stare zitti non significa essere scemi. Siamo molto amareggiati e arrabbiati per questa serie di decisioni discutibili che abbiamo subito in queste partite. Se il VAR è stato introdotto per dare una mano agli arbitri, li ha messi solamente in confusione. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. L'Italia ragiona centralmente con il tiro scoccato da Jordan Veretout e firma il sorpasso della Roma. Era importante vincere, ma era importante anche vincere bene. Penso che abbiamo fatto una buona partita, ma non sono soddisfatto con il risultato, perché possiamo fare più 3-4 gol facili. Non abbiamo bisogno di soffrire come abbiamo sofferto. Grande palla per Lozano che entra in area di rigore, rimontato da Pinasca, ancora Lozano, rete! Penso che noi dobbiamo guardarla tutti i giorni la classifica, dobbiamo capire dove abbiamo sbagliato da quando sono arrivato io e le cose che abbiamo fatto giuste quando sono arrivato io, però dobbiamo vedere i punti oggi che ci separano dall'Atalanta. Muriel! Ma come calcia Muriel da fermo! Però lo scudetto è un po' ranzara, perché è nelle mani della Juventus lo scudetto, qualunque risultato accadesse anche sabato. La Roma, il Napoli, il Milan stanno facendo comunque grandi cose. Questo è il primo grande obiettivo nostro, grandissimo, e dopo cercheremo, se possibile, di arrivare davanti all'Inter o di essere più o davanti alla Lazio, visto che il distacco adesso è veramente minimo. Allora, tra nervi abbastanza scoppiettanti, a proposito, ve lo dico subito, se volete intervenire 800 24 00 24 è il numero verde. Dicevo, tra nervi abbastanza scoppiettanti, come avete capito, la notte alta, anche troppo, del campionato dipinge due grandi partite in prospettiva. Milan-Napoli che non conta nulla quasi, ma rimane comunque una partita interessante, Juventus-Atalanta che invece potrebbe perfino portare qualche brividino anche a Ivan Zazzaroni. Buongiorno direttore. Ma è difficile. Difficile che io abbia ancora un brividino. ti sei bruciato via gli ultimi spasmi, insomma. Vince uno, vince l'altro, perde uno, perde l'altro. No, dovrebbero avvicinarsi un pochino di più a Juventus e Lazio e Atalanta. Ecco, voglio dire, Atalanta è francamente la cosa più bella di quest'anno, mi sembra evidente, no? Da questo punto di vista. E il resto mi sembra una assenza totale di concorrenza, perché la Juve sta vincendo nel suo anno. Sì, diventa difficile immaginare la Juventus che dovesse anche perdere con l'Atalanta, poi perde altri sei punti o quel no, che è. Dai. Mi sembra fantascienza. No, mi sembra fantascienza, e devo dire che per l'appeal del campionato non sarebbe male, anche perché una squadra che vince per 9 anni consecutivi, insomma, ti toglie un po' di interesse al campionato della stagione. Ma questo non è un augurio, adesso no, non vorrei che adesso, ecco, guarda, gufato, no. No, assolutamente. Però è come succede poi in Germania, 8 anni consecutivi col Bayern. Al Liverpool almeno erano tanti anni che non vincevano, ha vinto, sì, con 150 punti sulla seconda, quindi è finita praticamente gennaio. Poi tutto questo lo leggi sui dati televisivi, questo è un altro discorso, un altro film. Ma quello secondo me è una falsa notizia, nel senso che l'orario 21:45 è una follia. E dovrei mettere in galera chi l'ha decisa. Spero che non sia Andrea Butti, perché è un mio amico, ma so che ha avuto spinte da tutte le parti, AIC, non AIC. Sky, francamente, non è contenta penso anche da Zon di trasmettere la partita alle 23:20. Molta gente lavora, grazie a Dio si è conservato un lavoro. Alle 23 la gente stacca quasi molto, l'8%, 9% abbandona la visione della partita, ma non così catastrofica come viene descritta, evidentemente. È chiaro che se tu giochi tutti i giorni, cioè, il campionato non ti dà grandissime emozioni, preferisci riposarti, non dico vedere un altro programma o Netflix, però succede. Sì. Potrebbe essere stato Tupardo a suggerire l'orario, sai? No, mi sto ascoltando. Sono sul discorso della Juve un pochino più prudente, nel senso che voglio aspettare sabato sera, voglio capire sabato sera che succede, se ci sarà la reazione della Juve, cosa probabile, perché dopo la Coppa Italia la Juve ha reagito e perché l'altro giorno per 60 minuti mi è piaciuta, quindi probabilmente non è una crisi strutturale, ma è stata, diciamo, una follia, una tempesta perfetta, improvvisa. Però voglio aspettare domenica perché l'Atalanta è la squadra più in forma del campionato e perché, insomma, dal punto di vista almeno teorico, la possibilità di riaprire i discorsi c'è, riguarda la Lazio, riguarda l'Atalanta, riguarda eventualmente anche l'Inter se dovesse vincere stasera. Sì, ha ragione però Ivan che dice, ci fosse qualcuno a portata di schioppo, magari potrebbe essere un po' più, insomma, potrebbe dare qualche brividino in più. Stiamo parlando di 7 punti, 8 punti. Sono tanti. Stiamo parlando di squadre Inter e Lazio, l'Atalanta è di rincorsa assoluta e già l'idea che possa essere accostata a un sogno scudetto suona incredibile per com'era la classifica, ma nel caso di Inter e Lazio stiamo parlando di due squadre che hanno buttato via delle occasioni. La Lazio secondo me è proprio per una fatica, perché è arrivata stanca, stanchissima e con mille acciacchi alla fase calda della stagione, l'Inter perché queste due partite interne contro il Sassuolo e il Bologna, al netto dei meriti del Sassuolo e del Bologna, non si mancherebbe altro, però insomma comunque l'ha buttata via, non l'ha approcciata secondo me con il cinismo delle grandi squadre, con la capacità di chiudere le partite delle grandi squadre. Insomma, mi ricordo la famosa occasione di Gagliardini, ma anche quella di Candreva in Inter Sassuolo, la dormita sul 3-3, ma sì, ha avuto mille possibilità per chiuderlo in un altro modo. Credo che per la Lazio il discorso è diverso, nel senso che la Lazio è andata ben oltre le proprie capacità. Certo. Quando ha avuto incontri ravvicinati, cosa che non aveva avuto prima del Covid, sono usciti tutti i limiti della rosa, dei ricambi soprattutto. Quando invece poteva allenarsi e giocare una volta alla settimana, cosa che è capitata soltanto lei lì davanti, i vari giocatori magari che non hanno non hanno mai vinto molto, anzi quasi nulla, e non hanno la capacità di mantenere la pressione e la tensione, lì davano il massimo. Però il virus è quello che ha fatto peggio in assoluto alla Lazio, perché la Lazio giocando ogni 3 giorni va in difficoltà, non c'è da fare, Immobile in difficoltà, Milinkovic in difficoltà. Giocatore chiave Ivan, cioè la Lazio comunque vive e muore sull'onda di quei 4-5 giocatori che gli hanno costruito questa stagione. Invece in qualche modo la Roma fa un passo fuori dal fango, il Parma si è un po' rotto le scatole, Lucarelli non ha mandato a dire, non ha tutti i torti, ma d'altra parte ci facciamo abbastanza ridere dietro da tutti, avendo riesumato credo la regola triangolo in un rigore, lo dicevo l'altro giorno. No, è una roba terrificante. Noi siamo alla chirurgia del VAR. Purtroppo noi siamo sempre quelli eccessivi in tutto, nell'applicazione di tutto, perché abbiamo più pressione agli arbitri rispetto ad altri paesi. Per cui loro devono arrivare a un punto in cui oggi hai sul fallo di mano e sul fallo e sul come si chiama il fuorigioco sei chirurgico. Su altre cose, per esempio, ecco, vedi, fai delle cazzate del tipo quella di Pairetto l'altro giorno. Uno che ti dice sei scarso, sì, e tu lo cacci 11 contro 10 al 57esimo. Cioè, ci sono tante situazioni che andrebbero controllate, ma soprattutto secondo me andrebbe anche finalmente fatto un ricambio di gestione, di management a livello arbitrale, che stiamo in qualche modo così spingendo da tanti anni. Cioè, bisogna cambiare. Quando le cose non funzionano più, bisogna cambiare. Ormai siamo al quarto mandato, non so se lo daranno, di Nicchi. Cioè. So che Trentalange vuole candidarsi, ma non so se sarà lui il candidato. Cioè, i centri di potere non funzionano. Il ricambio va fatto con forze fresche. Sì, ci sono anche diversi che perdono un po' la testa. Ad esempio Sinisa Miero, ci abbiamo sentito prima, poi la polemica con Sky, secondo me se la poteva ampiamente risparmiare. Ora non difendiamo nessuno, ce ne frega niente di altro, però mi sembra che il livello sia stato abbastanza scarso in quella polemica. Quella degli arbitri o quella di Fabio? Quella su Caressa, ma anche sugli arbitri. Allora, io onestamente non ho visto il club l'altro giorno, quindi non so dirti. sia in generale, ma questo abbiamo fatto mille volte il discorso di porre di più l'attenzione quando una grande squadra sbaglia, più sui suoi demeriti, sulle sue colpe, che sui meriti della squadra medio-piccola, ammesso che Bologna possa essere considerato medio-piccola perché sta facendo benissimo. Questa è una cosa che c'è da sempre, non voglio dire che sia giusta, che sia sbagliata, insomma, però è un normale meccanismo di stampa nazionale, per cui è ovvio che fa più notizia l'Inter che perde in casa rispetto al Bologna che vince fuori. Questo è proprio tanto per essere... Ma sì, che però non vuol dire... Okay, no, Pierluigi, però chiaro, noi facciamo questo mestiere, l'Inter che perde in casa in quel modo con il Bologna, la notizia è l'Inter, poi al Bologna tutti i meriti del mondo, però la notizia è quella. Esattamente questo, io la traduzione non l'ho vista, ma insomma... Comunque adrenalina da post partita, io sono sicuro che si chiarirà, cioè penso proprio che sia una di quelle Non ho visto il club di quel piccoletto che è marito di Benedetto Parodi, e si tolgono tutti la giacca, non l'ho visto, a parte che è per me un fratello Fabio, quindi sicuro. Ma da quando Pardo non fa più televisione la domenica sera, non guardo più la televisione sportiva io. Ma io facevo la partita ogni tre giorni, sto in antagonistica. No, sto più da adesso di prima. Io credo sinceramente che il problema sia antico, cioè la mancanza di attenzione nei confronti dei club medio. Io sono tifoso del Bologna, certo. Per cui figurati. Lì bastava soltanto che un ospite o Fabio stesso riconoscesse pubblicamente, ecco, i meriti della squadra. Il valore, certo. Bastavano 3 minuti, 2 minuti, 1 minuto, 15 secondi, cioè ci sta, perché comunque vanno rispettate tutte le realtà del calcio italiano. È vero che giornalisticamente il caso era quello dell'Inter, poi chiaro, Juvara, Mustabarro, tutto il resto, cioè hanno puntato su quello. Forse sì, è mancato, diciamo che Sinisa ha spinto un po'. Io ho Fabio Sinisa stamattina, gli ho detto: Fabio, ma prendila anche tu con filosofia, con ironia, di che ha detto tre cose vere. Ha detto: sei alto, di che sei il marito di Benedetta Parodi, e sì che forse era il caso di dire qualcosa anche su Bologna. Hai ragione. Ma si chiariranno. Io su questo veramente, però ripeto, fa parte anche dell'adrenalina post-match. È avvenuto, non è la prima volta e non sarà l'ultima. E sul tema complessivo non c'è dubbio, su 100 conversazioni nei bar italiani il giorno dopo Inter-Bologna, 95 erano su come l'Inter aveva buttato via la partita e 5 probabilmente nella zona soprattutto di Bologna, secondo me il vero sui meriti di questa squadra. Cioè, approfondirei invece l'altro discorso, cioè quello delle munizioni che vengono combinate prevalentemente ai giocatori meno importanti e ai più giovani. C'è una mancanza di personalità da parte di alcuni arbitri. E un po' mi rifacevo anche al discorso, chiaramente Soriano ha 29 anni, non è uno giovane, ma non puoi, se fosse stato, faccio un esempio, se l'avesse detto Totti, non l'avrebbero cacciato. Se l'avesse detto Del Piero, non l'avrebbero cacciato. Se l'avesse detto Ibra, non l'avrebbero cacciato. E l'ha detto Soriano, Pairetto ha fatto il permaloso e l'ha cacciato. Cioè, però cambi una partita, cioè puoi modificare con una decisione del genere, magari trascurando un brutto fallo o un'altra munizione per un fallo. È questo. È quello che frega, fa incazzare gli allenatori e non solo gli allenatori. Sai quante volte abbiamo parlato di sudditanza psicologica in altre sedi? È la permalosità che non va bene. Sì. La permalosità non va bene, poi perché dai, io non faccio l'arbitro, quindi non lo so, però credo che insomma appunto ci siano cose ben più gravi che avvengono in un campo da calcio, e quindi quel tipo di sanzione è stata assolutamente esagerata rispetto al commento di Soriano, e poteva onestamente avere un riflesso sulla partita, poi non l'ha avuto perché... Ha subito il fallo. Ma al di là di questo poi viene amplificato dal vuoto dello stadio, perché se tu hai lo stadio pieno non lo senti nemmeno, sì, cioè, certo. Al 90% non lo senti, e poi soprattutto non lo sentono gli altri, hai capito? Cioè rimane tra te quello che l'ha detto, e quindi mentre così davanti a tutto il mondo. Ivan, prima di salutarti e cominciare a parlare con gli ascoltatori 800 24 00 24, vorrei una tua opinione su due punti che vanno all'altra sera, cioè a quel pazzesco Milan-Juventus. Secondo me per la Juventus è stata una cosa talmente grande e fragorosa da non essere nemmeno un campanello di allarme, punto primo. Dall'altra parte il Milan, siamo alla solita resa dei conti, cioè la squadra fa molto bene quello che può, eppure le teste saltano lo stesso. Allora, primo punto, velocemente, quando prendi 3 gol nell'arco di 10 minuti e sei la Juventus, vuol dire che sei nel campo delle eccezioni assolute. Appunto. Anche perché nei primi 60 minuti avevi fatto bene, molto meglio del Milan. Quindi lì è stata una serie di dormite, voi riguardate le immagini, io sono rimasto impressionato dalle dormite che hanno fatto a livello difensivo, che non appartengono alla Juventus. Però queste cose possono succedere. Poi verificheremo con l'Atalanta se effettivamente l'assenza di De Ligt è stata così iniziale, questo non lo so dire. L'altro discorso del Milan, non ne hanno infilata una sul piano dirigenziale, cioè abbiamo detto mille volte, quando tu prendi Maldini e Boban devi sapere chi prendi, cioè non puoi prendere Maldini e Boban perché sono due intelligenze o due vecchie glorie, devi sapere che sono due persone che vogliono decidere, che vogliono incidere, che vogliono autonomia, e non puoi improvvisamente sulla base dei risultati permettere che uno se ne vada, che l'altro viva nella condizione in cui ha vissuto in questi mesi. La scelta di Rangnick ci può stare, cioè vuol dire, vuoi prendere un allenatore che ti piace particolarmente, sei tuoi Moncada, Amstad dicono che è un fenomeno, in effetti è bravo, cioè non puoi dire niente di Rangnick, però ragazzi, sei mesi allucinanti, e in queste difficoltà Pioli è bravissimo. Sì. Cioè, Pioli nelle difficoltà è bravissimo. Il problema di Stefano è quando le cose si aggiustano, non quando le cose vanno male, perché lui ha la capacità, essendo una persona molto seria, è un attore molto serio, ben voluto anche dai giocatori, di tirare fuori il massimo nei momenti di difficoltà. Credo che a Firenze ne sappiano qualcosa, sappiamo l'importanza, l'incidenza che ha avuto all'interno di quello spogliatoio, e che persona grandiosa sia Stefano Pioli. Quindi sono d'accordo, penso che stia tirando fuori il meglio da questa squadra. Devo dire che c'è un focus, secondo me, particolare che deve essere fatto sulla condizione fisica, perché è l'aspetto più impressionante. Cioè, hanno lavorato bene, l'ha detto anche lui, hanno lavorato bene anche durante il lockdown, sono arrivati in una condizione di crescita fisica enorme, di splendore fisico, quindi questo incide molto, e sulla confusione di ruoli è evidente, insomma, non... Tante volte ci può essere la tentazione di prendere delle figure leggendarie dei club, essenzialmente per la loro immagine, per ciò che rappresentano agli occhi dei tifosi. Certo, per raccogliere un po' di consenso. Ed è un aspetto, certo. Un aspetto che non è secondario, perché è anche sicuramente una fortuna per Boban, per Maldini, per Avezzanetti, per Totti, per Del Piero, avere questo tipo di immagine, perché sicuramente gli può dare delle vie preferenziali rispetto a un signor nessuno. Però poi bisogna mettersi d'accordo, se uno sta lì per fare essenzialmente la figura di riferimento, se fare il parafulmine oppure per incidere, questo ci vuole chiarezza. Torniamo dopo sulla questione Milan con Gimbo Tognazzi. Intanto saluto Ivan. Ciao direttore. Ciao a tutti, ciao. A presto. Mi fermo un secondo per un breve break e poi vedo Massimo, Alessandro, Giuseppe, ascoltatore in linea. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Il fatto che anche a livello di lesioni pericolose l'area avversaria, l'Inter sia quella tra le migliori, dimostra che sicuramente le partite sono state delle buone partite. Il problema è che puoi avere tutti i numeri positivi e buoni che ci possono essere, però ecco, alla fine tutto questo deve coincidere anche con un risultato positivo. Questo ovviamente Conte. Alessandro, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo solo esprimere una precisazione. Intanto sono un po' deluso perché tre giornalisti autorevoli come voi che fanno un'informazione un po' distorta, perché sull'espulsione di Soriano da parte di Pairetto non l'ha detto solo sei scarso, si vede chiaramente dal labiale, ma si sente anche visto lo stadio vuoto, gli ha detto anche vaffanculo. Quindi giustifichi dire che quello è un errore arbitrale, quando invece non lo è. È assolutamente fatto bene espellerlo a termini di regolamento. Secondo me i giornalisti dovrebbero dirlo correttamente e molto chiaramente, tutto qui, perché altrimenti poi si creano anche situazioni in cui i tifosi vanno dietro a queste cose qua. se permettiamo ai giocatori di insultare gli arbitri, vabbè, allora lo permettiamo e basta. No, ti io il gioco. Io lo vaffanculo me lo sono perso. Bisogna guardare bene, bisogna guardare bene. Voi siete giornalisti, sì, siccome lo stadio è vuoto si è anche sentito molto chiaramente. E poi si legge nel replay sul labiale almeno 20 volte. Non gli ha detto solo sei scarso, perché spendere un giocatore perché ti ha detto sei scarso, sono d'accordo con voi. E spendere un giocatore perché gli ha detto vaffanculo è un'altra cosa. Ed è punibile con l'espulsione. Io credo che se ci fosse un'espulsione per ogni vaffa, che se, cioè, finiscono 4 contro 3. Non sto dicendo che quello che lei dice sia sbagliato, per carità, la buona educazione è importante ed è giusto educare alla buona educazione. Però credo sinceramente che gli arbitri molto spesso, insomma, siano abituati a non essere troppo permalosi. Questo è quello che penso, altrimenti le partite finirebbero 4 contro 3 o 5 contro 2. E detto questo, sicuramente l'espressione baffa non è un'espressione consona. Nessuno sta dicendo che Soriano abbia fatto bene. Credo che il livello di permalosità degli arbitri vada tenuto sotto controllo. Qualche volta sia un po' elevato. Esatto. Giuseppe, in questo caso mi è sembrato un po' esagerato. Sì, anche a me. Non è un errore arbitrale in senso stretto. No. Non è un errore, un fallo di mano non dato, visto, o un errore tecnico. È una interpretazione, secondo me, un po' permalosa di una esternazione. Giuseppe Varese, buongiorno. Buongiorno a voi. Grande Pardo, e per la prima volta non sono d'accordo con te. Io penso, dopo quello che ha detto questo signore, che un vaffanculo è forse più accettato, perché mentre giochi è normale, vaffanculo lo dici, però sei scarso, secondo me è brutto, va punito. Immaginiamo un arbitro che guarda un giocatore, vede che sbaglia un passaggio, ma sei scarso. Io vorrei vedere cosa succede, perché il giudizio Io guardi, sono d'accordo, cioè voglio dire, non è che l'arbitro deve giudicare i calciatori dal punto di vista tecnico. Io penso in generale che nella prassi, parlando anche con arbitri, anche arbitri del passato, ci sia una certa capacità psicologica dell'arbitro di non stare a sentire esattamente tutto, a meno che con le cose gravi, le bestemmie, queste cose è diverso, ma in generale ci sia un'abitudine a capire che alcuni eccessi, anche verbali, durante la partita fanno parte del gioco. Poi, ripeto, io non dico che Storiano ha fatto bene. No, ma allora il contesto agonistico vale per tutti, per gli arbitri come per i giocatori, no? Quindi l'adrenalina, l'eccesso di foga, eccetera, eccetera. Poi sono, perdonami la forzatura, ma quasi colleghi in quel gioco lì. Quindi in quel contesto può succedere anche che ti sfanculi con un compagno o addirittura con l'arbitro. Appunto, io penso che ci siano delle situazioni, dei contesti, dei livelli di adrenalina che possono giustificare anche in qualche modo il turpe turpiloquio. Giuseppe? No, Giuseppe non c'è sta. L'altro ascoltatore che era in linea non ci sta, allora io direi che possiamo aggiornare la seduta. Teniamoci naturalmente Pierluigi Pardo, ascoltiamo la borsa, poi torniamo anche con voi e se volete intervenire siamo qui 349-238-6666, tra l'altro per i WhatsApp vocali 800-24-0024 per le telefonate. Dopo la borsa torniamo, come anticipato prima, affronteremo di nuovo il tema Milan, perché sono curioso di sapere da quale parte del campo sta Gimbo Tognazzi. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24 800 24 00 24. Mister Gente e Pierpardo vi aspettano. Tutti convocati. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Tutti convocati. Io fossi in Gazzidis chiederei scusa a Paolo, perché quando si parla di Maldini e Milan si parla di Paolo, si parla di Cesare, si parla di una dinastia. E l'acerbo dirigente Maldini in un solo anno ha portato Teo Hernandez, ha portato Bennacer, ha portato Rebic e ha riportato Ibra. Quindi il signor Ragnik il prossimo anno, quando verrà, visto che è stato preso perché è più bravo, dovrà trovare almeno 7-8 di giocatori di questo livello. Mi sa che lo state caricando troppo sto Milan. All'inizio del girone di ritorno era una squadra che non valeva una cippa, adesso sono diventati fenomenali. Vedrete che fino alla fine del campionato perderanno le ultime 6-7 partite consecutive. Forza Juve! Signor Genta, la De Black della Juventus si chiamano Bennacker, Hernandez e Kessié. Vedete il tabellino della partita, cosa vi dice? Auguri a tutti! Questo è il pensiero via WhatsApp di alcuni nostri ascoltatori, Pierluigi. Come annunciato c'è Gianmarco Tognazzi. Ciao Gimo. Ciao Gimo. Buongiorno. Ciao. Voglio chiederti come hai vissuto la partita più rumorosa dell'anno col commento del mio amico Pardo. No, è stato bello avere Pierluigi che commentava la partita, perché insomma dopo la grande depressione di inizio secondo tempo c'è stato questi 35 minuti ottimi della squadra, che esce sempre nel secondo tempo con una freschezza maggiore, e quindi contenere nel primo tempo non andando in vantaggio certe volte li mette in condizione sia di recuperare che di finire anche in volata, cosa che non succedeva precedentemente. Sì, Pierluigi, ripeti la tua opinione di ieri. In quale campo stare è difficile da capire, no? Rivoluzione o restyling? No, sì. Fermi, perché? Vai Gibbo. No, ha ragione, sono d'accordissimo con il primo intervento WhatsApp rispetto al lavoro fatto da Paolo Maldini. Io sono stufo di leggere commenti da parte di gente che si sedicenti tifosi di questa squadra che non hanno né la capacità di essere riconoscenti né di saper valutare quello che è il lavoro che Maldini e Boban hanno dovuto fare, come ho già detto più di una volta, all'interno di paletti messi da una proprietà che farà un'ennesima rivoluzione assolutamente inutile, perché per carità, se si deve arrivare a tra 4 anni per avere questo stadio e trovare nel frattempo la scusa di ricominciare da capo ogni anno, ma sembrerebbe tanto questo, nel senso che ogni volta che si trova una quadra con Gattuso, dove si devono fare degli aggiustamenti, con in questo caso con Pioli, eccetera, si va a destabilizzare uno zoccolo duro. Io sono per la continuità, sono per indipendentemente da chi sia l'allenatore, penso che una grande squadra si basi su una continuità di progetto sportivo, cosa che il Milan sta tradendo da 7 anni a questa parte. Quindi all'opposizione rispetto al governo del Milan attuale, Gimo Tognazzi, Pierluigi? Completamente, ma lo dico apertamente, credo che sia un non renderci conto che una squadra, chiunque arrivi al Milan, avrà una difficoltà iniziale che ha qualsiasi allenatore, ce l'ha avuta anche Sacchi. I primi 4 mesi, un gruppo nuovo, prima che capisce cosa deve fare, quindi noi passeremo una prima parte di stagione dove questo Ragnic sarà magari anche bravissimo e porterà dei giocatori buoni, ma prima che squadra, è fisiologico per un gruppo che cambia. Quindi tu devi ragionare da un certo periodo in poi a trovare i giusti tasselli da inserire in un progetto sportivo, ma se lo cambi ogni fine stagione, ogni volta siamo da capo, ma non lo dico io, lo dico da mesi, ma vedo che iniziano a dirlo fortunatamente anche altri adesso. Pier? Sì, io resto sulla posizione di ieri, cioè io credo che in questo momento sia da un lato c'è secondo me la legittimità di poter pensare a rang, di poter pensare a un progetto di tipo nuovo, questo è indiscutibile, è comunque un'idea ed è un'idea precisa, quindi io sono d'accordo con quello che diceva Di Carlo l'altro giorno, cioè non dobbiamo secondo me farci condizionare dalla stima, dall'affetto per Maldini, per Boban, per Milan, per tutta una serie di aspetti. È un'idea precisa di un allenatore che oltretutto ha una sua legittimità, ha una sua forza a livello europeo, quindi secondo me non bisogna farsi prendere da idee preconcette. Detto questo, no, scusami, quello che ma sta venendo fuori nell'ultimo periodo, soprattutto, scusami, finisco al volo, è la sensazione che questo progetto piano piano stia sbocciando, e sta sbocciando nelle difficoltà, e sta sbocciando con una correttezza di comportamenti, una serietà di comportamenti che forse meriterebbe un'altra soluzione. Quindi io non so dirti quale delle due sia la strada migliore fra rivoluzione e riforma, non te lo so dire. È chiaro che bisognerà prendere una strada e cercare di mettere insieme i pezzi, ma non è semplice perché in questo momento il quadro sta diventando lusinghiero, perché comunque questa squadra nelle difficoltà sta trovando delle sue soluzioni. Pioli meriterebbe un'altra occasione, non c'è dubbio che meriterebbe un'altra occasione per quello che sta facendo vedere. E poi ricominci da zero, però in questo ha ragione Gimbo. Ma il problema è proprio questo, cioè la quadra l'aveva trovata anche Gattuso arrivando a un punto dalla Champions League e prendendo una squadra in corsa che aveva fatto un primo girone con Montella ignobile. E se non capisci che già quello e ti dice una spina dorsale d'esperienza, poi arriva dopo un anno finalmente Ibrahimovic, e giocatori che non rendevano, rendono quattro volte tanto, dando e affermando che Maldini ha fatto un ottimo lavoro di ricerca, come diceva un altro ascoltatore, su Benasser, su Teo Hernandez, su Leao, probabilmente, perché vediamo come cambia Leao anche con Ibrahimovic. Non rendersi conto di questo e ogni volta distruggere quello che sta iniziando a quando sta iniziando a trovare la quadra, secondo me è autolesionistico. Ma siccome siamo nella società dei consumi, dove si gode a cambiare compulsivamente come se quella fosse la soluzione, io vedo che invece mi sembra che la soluzione sia data da squadre come Atalanta, Juventus e Lazio, lascia perdere l'ultimo periodo della Lazio, che si basano su uno zoccolo duro, su un allenatore, che si ostinano a trovare gli accorgimenti, non a rivoluzionare ogni volta. Però siamo nel paese dove piace, si gode a cambiare compulsivamente. Io non sono d'accordo sportivamente parlando. Sì, io la penso più o meno come te. No, ma anch'io la penso, bisogna fare un discorso chiaro ai tifosi. Rispetto per Ragnic, magari è un genio e lo dimostrerà, però se poi non sarà così e tra un anno parliamo di nuova rivoluzione, è un po' come il Covid-19, c'è da farsi due domande, ragazzi. No, anche perché poi oggi leggo ad esempio sulla Gazzetta dello Sport Giovanni Galli, che a capello sostiene più o meno la teoria che di Gimo Tognazzi. Galli dice, vabbè, può avere un senso cambiare tutto in maniera forse definitiva, però servono un progetto di 5 anni. Ora 5 anni li voglio vedere, cioè se un allenatore non... È il tempo per arrivare alla costruzione dello stadio, che è la vera ragione del nostro proprietario. Diciamo la verità. La verità è che il grande interesse è la costruzione dello stadio nuovo, lo sappiamo tutti. E allora, siccome sappiamo che Scaroni dice che sarà pronto nel 2024, facciamo questo progetto sportivo come viene da qui a 4 anni, perché lì dobbiamo arrivare. Questo sembra, non voglio lanciare illazioni, però tanto sembra questo dagli atteggiamenti, perché sono incomprensibili a mio giudizio. E però ti trovi di fronte ad una squadra che devi vendere, perché questo Iliot fa di mestiere, che però perde ogni stagione, affonda le mani nel suo credito e i crediti passati prima o poi finiscono. Chiedesse al suo amministratore delegato, che doveva portare gli sponsor, e si rendessero conto che se non hai risultati sportivi difficilmente riesci a incrementare attraverso i risultati sportivi, se non fai una squadra competitiva, come dice lo stesso Ibra, che dice il Milan deve lottare per il primo posto e non per il quarto. Non ha mai detto se c'ero io vincevamo lo scudetto, ha detto che sarebbe stato un campionato diverso, che avrebbe provato a lottare magari come la Lazio, non che vinceva lo scudetto, perché anche i giornali riportano le cose proprio come gli pare. Credo che sia così, Pier. Credo che la storia sia più o meno, sia severo ma giusto. Il quadro è severo ma giusto, soprattutto nei grandi club c'è tanta aspettativa, c'è tanta pressione, quando le cose non vanno bene, non vanno bene del tutto, c'è questa cosa giusta che c'è questa tendenza al cambiamento, la ricerca spasmodica del cambiamento, perché sembra che se stai fermo e se hai pazienza stai commettendo un errore, stai perdendo tempo. E invece in realtà lo ricordiamo sempre, Ferguson vinse il primo trofeo col Manchester United dopo 3 anni e mezzo. Bisogna avere la forza, le spalle larghe, anche un pizzico di fortuna con i risultati, di poter avere questa pazienza e di poter comunicare questo progetto in maniera corretta ai propri tifosi. È un'occasione che Milan in questi anni ha perso varie volte, secondo me, e alla fine il motivo è stato sempre lo stesso, l'ansia di dover recuperare il tempo perduto, perché la tradizione del Milan è talmente grande, talmente forte, il paragone col passato anche recente è talmente complicato che questo discorso non è stato mai fatto. Cioè un progetto di lungo periodo in cui si dice, ragazzi, noi ripartiamo, ci diamo come obiettivo 3 anni, 4 anni, ecco, qualche anno fa lo potevi fare, secondo me lo potevi fare anche abbastanza tranquillamente. Il popolo rossonero comunque ha vinto talmente tanto negli anni che secondo me avrebbe accettato un discorso con questa premessa. Non è stato fatto perché si è cercato di accorciare i tempi e non ci si è riuscito. Grazie ragazzi. Basta che, basta che se lo, a questo punto viano il tedesco, però poi se lo tenessero 4 anni come vanno vanno le cose, eh? Sì. Cioè, non è che ricambiamo, no, perché l'anno scorso abbiamo detto non è che ricambiamo l'anno prossimo e abbiamo ricambiato perché non andava bene l'anno, allora meglio un po'. Voglio vedere, però, se vi ricordo, se il Milan è settimo in classifica a dicembre, voglio vedere. A quanto tempo è che il Milan non vinceva contro Roma, Lazio, Juventus in questo modo? Forse dai tempi in cui c'era ancora Ibra? E qualcuno dovrebbe iniziare a pensare, visto che ci si lamentava tanto che il Milan con le dirette concorrenti in alto non riusciva a fare mai risultato da anni. Però tutto questo passa in cavalleria, va bene, allora cambiamo tutto. Ciao ragazzi, grazie. Ciao Pier. Fermiamoci per il traffico, poi collegamento con gli Stati Uniti. Magari vi faccio raccontare da Simone Sandri, visto che parlavamo di arbitri un po' permalosi, chi era Joy Crawford. Abbiamo anche Nick e Antonio, due ascoltatori, li faremo parlare subito dopo il traffico. Ma sì, quanto enfatizzare questo Milan, sta vincendo partite che non contano nulla, quindi doveva vincere all'inizio del campionato queste partite. Ormai volevo vedere se la Juve avesse avuto delle buone motivazioni come andava a finire. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Mick da Chieti, buongiorno. Ortona, non Chieti. Ma scritto Chieti, chiedo scusa. Ortona, provincia di Chieti, uguale. Bellissimo. Allora, buongiorno ragazzi. Io sono purtroppo, per fortuna, d'accordo con i due ascoltatori sul caso Soriano, sull'espulsione. Mm. Perché? Perché secondo me state sbagliando di grosso. Allora, intanto il vaffanculo e lo scarso si puniscono a prescindere, sì, che sia Soriano, che sia Ibrahimovic, che siano campioni, perché il calcio, ragazzi, adesso più che mai è un'immagine, no? E deve essere educativo. Mandare a fanculo il professore, il genitore, l'educatore in quel caso, non è corretto. Punto. Non sì, ci sono forze, sì, ha sbagliato, sbaglierà, Nick, di più, però, di meno. Tenderei è a sottolineare. Regola. Io non devo, sì, poter mandare a no, bisogna comportarsi bene e usare un linguaggio opportuno. Questo certamente. Io tenderei a sottolineare la differenza di contesto, perché se io mi rivolgo così al mio insegnante, sono semplicemente un maleducato, devo essere mandato a casa. Se mi rivolgo a un compagno di squadra, eventualmente a un arbitro, in un contesto agonistico, ripeto, che non è un ufficio postale, ma è un luogo dove si fa sport, dove si gioca con il fisico, con l'adrenalina, con la fatica, bisogna tener conto anche di questo contesto. Ora, per giustificare nessuno, però dato che c'è Simone Sandri in linea, ciao Simone. Buon pomeriggio Carlo. Ciao. Mi verrebbe voglia di farti raccontare dire due parole su Joy Crawford, sì, il più famoso arbitro dell'NBA. A proposito di arbitri permalosi, hai scelto proprio il poster boy dell'arbitro permaloso. Joy Crawford è sempre stato uno dal fischio facile, soprattutto dal tecnico facile. Ci ricordo una delle sue più famose scene è stata tipo una dozzina d'anni fa, mi sembra nel 2007, quando espulse Duncan dalla panchina perché sorrise in maniera, fece questo ghigno un po' sarcastico dopo che Crawford fischiò un fallo in attacco e lui decise di dargli il secondo tecnico, di espellerlo. Ci fu una grandissima polemica e poi Crawford fu fermato per tutti i playoff da David Stern quell'anno, per cui se parliamo di detto questo, nell'NBA è spesso la parola in più è spesso tollerata, soprattutto, e bisogna dirlo, da veterani, dai giocatori più di nome, e le parole in più e anche magari qualche volgarità è tollerata. Quando è ripetitiva, allora incominciano ad arrivare i tecnici. Sì, tutto il mondo è paese. D'altra parte, Joe Crawford fu uno che un paio di volte si arrampicò anche sulle tribune per azzuffarsi con tifosi che lo avevano, diciamo così, ripreso, non esattamente con le buone. Senti, invece, rumori dalla bolla, si è aperta la bolla di Orlando in cui tu ti chiuderai verso la fine del mese per essere pronto per la riapertura. A questo punto, forse teorica dei giochi, perché Stern ha detto: attenzione, noi facciamo tutto quello che dobbiamo fare, facciamo le cose per bene, non posso garantire che la situazione non diventi insostenibile. Sì, il problema principale dell'NBA naturalmente in questo momento è quello di che possa scoppiare dei casi di Covid dentro la bolla, e in un contesto del genere potrebbero esserci dei contagi alti, magari una squadra che ha 3-4 giocatori contagiati dentro la bolla. Da un certo punto di vista però il protocollo è fatto in un modo abbastanza solido, per cui sembra studiato in maniera intelligente, per la quale sembra un'eventualità difficile, diciamo improbabile, anche se naturalmente può succedere, perché i contatti con l'esterno sono assolutamente minimi, per cui i giocatori una volta nella bolla, certo il problema è riuscire ad avere tutti i giocatori negativi nella bolla, iniziare gli allenamenti. Le prime squadre sono già arrivate, c'è una squadra come i Nets che è arrivata decimata con 7 giocatori lasciati a casa per infortuni o per Covid, una squadra ovviamente che non potrà competere per quasi nulla praticamente. Però il problema principale è tenere il Covid fuori dalla bolla, questo ovviamente le 110 pagine del manuale di 110 pagine che è stato dato a ogni singolo giocatore è proprio per cercare di fargli capire quanto importante sia mantenere un certo tipo di disciplina per tenere il Covid al di fuori dalla bolla. Credo che la palla passi al senso di responsabilità di quelli che abiteranno lì dentro, ci auguriamo tutti, fino a metà ottobre, quando sono in programma le finals. Invece, dalle voci che arrivano da lì, per ora escono da lì foto di cibo in scatolato non propriamente all'altezza dei califfi dell'NBA, Simone. È vero, e c'è questa conspiracy theory che dice che LeBron James sicuramente non mangerà quel cibo, ma in un modo o nell'altro troveranno il modo di portargli. Ma per chiarire però questa situazione, praticamente i giocatori che arrivano nella bolla devono stare dalle 36 alle 48 ore completamente isolati nella loro stanza e devono avere 2 test negativi nel giro di 24 ore. In questo periodo non possono avere contatti con nessuno, per cui anche a livello di cibo c'è un protocollo del cibo molto particolare. Quindi finite queste 36 o 48 i giocatori poi possono andare ai ristoranti, ci sono una serie di chef anche di grande livello che saranno nella bolla, per cui è solo una questione di tempo. È come quando voli che mangi il cibo della compagnia aerea, però appena terra puoi andare al ristorante, per cui è lo stesso concetto. Un attimo di calma, mi dici, avremo tanto modo di sentirci su ogni tipo di argomento dentro a quella bolla, però mi dici 2 parole su Mahomes, il principe di Kansas City. Adesso ha vinto l'anello, ma soprattutto ha firmato il contratto più ricco della storia del mondo dello sport, ovviamente 450 milioni. Sì, parliamo di un giocatore di potenzialità pazzesca, diventa ovviamente il più ricco giocatore della storia, se pensiamo che a 24 anni ha già un MVP nel suo resume, una vittoria al Super Bowl, un margine di miglioramento spaziale, e questa è la cosa che forse la gente non si rende tanto conto, che stiamo parlando di un giocatore che è già forse il miglior giocatore dell'NFL in questo momento a 24 anni, ma con margine di miglioramento spaziale, per cui l'idea che lui possa avere il contratto più ricco della storia dello sport americano è qualcosa di abbastanza logico, se vogliamo dirlo. Poi dal dire al fare c'è sicuramente un salto, ma parliamo di un giocatore che è veramente speciale, veramente qualcosa di diverso dal resto. Poi anche molto mediatico, e questo non ovviamente non guasta. So che ti farai New York Orlando in macchina. Beh, buon viaggio. Sì. Ti faremo con quanto ci metti? Circa 18 ore, sì, perché anche l'NBA consiglia di non volare, per cui probabilmente andrò in macchina, anzi sicuramente andrò in macchina. Buon viaggio, Simone. Grazie. A presto, grazie davvero. Ciao, Carlo. Grazie davvero, Simone Sandri. Non riesco a parlare con Antonio da Bari, purtroppo. Mi spiace moltissimo, ma devo chiudere il programma. Se vuole, domani, certamente. Intanto ringrazio Lorenzo Nespoli e Claudia Schiattone. Ringrazio Valeria Bernardi. Ciao a tutti. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti.